Buonasera, benvenuti a Zardins Magnetics di giovedì 16 ottobre 2025. Siamo sempre in compagnia dell'Assemblea contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste. Partiamo subito con la sigla del nostro programma. Habito ya tutoriales de cómo se hace esa de conté moloto. Y de tu cuarto no sale a manifestarte, el pelo nunca se te vio. Cuando estoy a pie de calle rodeado de mis compañeros, y a la hora de la verdad es cuando te echo de menos. Amante de la guerrilla virtual, sigue colgándote fotos de malos en Instagram. Y apaga el ordenador y vete a la puta calle donde sentirá el calor de esos bidones que arden. Y apaga el ordenador y vete a la puta calle donde sentirá el calor de esos bidones que arden. Que ya se escucha mi flamencore por todas las esquinas. Que lo bailen los mayores, baile tu madre con tu vecina. Que yo no soy de tirarle flores, que no son cosas mías. Prefiero contenedores cuando me enfrento a la policía. Que ya se escucha mi flamencore por todas las esquinas. Pa' los alborotadores, pa' que lleva este estilo de vida. Que yo no soy de tirarle flores, que no sono cosa mía. Prefiero contenedores cuando me enfrento a la policía. Ya apaga el ordenador y vente a la puta calle donde sentirá el calor de esos bidones que arden. Ya apaga el ordenador y vente a la puta calle donde sentirá el calor de esos bidones que arden. De esos bidones que arden. De esos bidones que arden. Ya se escucha mi flamencore por todas las esquinas. Que no bailen los mayores, baile tu madre con tu sobrina. Que yo no soy de tirarle flores, que no son cosas mías. Prefiero contenedores cuando me enfrento a la policía. Que ya se escucha mi flamencore por todas las esquinas. Pa' los arborotadores, para que lleva este estilo de vida. Que yo no soy de tirarle flores, que no son cosas mías. Prefiero contenedores cuando me enfrento a la policía. Ya apaga el ordenador y vente a la puta calle donde sentirá el calor de esos bidones que arden. Y apaga el ordenador y vente a la puta calle donde sentirá el calor de esos bidones que arden. Stiamo ascoltando Er Pizzu di Cadiz dal suo album El enemigo en casa, che seguiremo ascoltando in sottofondo. Sì, e si può proprio parlare di nemico in casa. E allora, intanto iniziamo la trasmissione Zardins di oggi dando solidarietà a tutti i fermati dagli sbirri nella serata del 14 ottobre, tutti fermati, tutti appunto i malmenati. E i rinchiusi 5 ore nella cella senza niente, solamente senza poter nemmeno andare in bagno, e anche con chi è stato arrestato e quindi trattenuto. E ricordiamo che c'è una persona che è agli arresti domiciliari e un compagno attualmente ancora detenuto in via Spalato. E quindi solidarietà a tutte le persone che sono state attaccate dalla polizia, e esprimiamo anche lo schifo per tutta l'operazione che è stata portata avanti nella serata del 14 ottobre dalla polizia e anche dai mezzi di comunicazione che hanno preparato, diciamo, da un punto di vista psicologico, e un clima veramente assurdo. E chiaramente non parleremo ancora, insomma, di quello che è successo. E è importante continuare a mobilitarsi, non lasciarsi in nessuna maniera intimidire dallo spiegamento di forze orrendo. E però stasera non parleremo direttamente, diciamo, di questo, cioè abbiamo pensato di parlare di sì, di Palestina, e nel senso anche di così, per cercare di affrontare la questione della palestinizzazione o della israelizzazione vista dall'altro punto di vista, anche delle società, delle nostre società, diciamo, e attraverso che cosa? Attraverso il militarismo, la militarizzazione estrema della società, l'incarcerazione estrema della società e questi patti scellerati tra stati, eserciti, attori privati, diciamo, a scopo di lucro, e quindi industrie, diciamo, tecnoindustrie degli armamenti. E allora, pochi giorni prima del 14 di ottobre, della manifestazione appunto contro l'infame partita della nazionale italiana con la nazionale slovena, con la nazionale israeliana, e il giorno 8 di dicembre c'è stata un incontro, insomma un convegno a Gorizia, appunto il Festival del Cambiamento lo chiamano così, Gorizia, città della pace giusta, un convegno che era, vedeva la collaborazione appunto di la Camera di Commercio, l'International Strategic Network e MEDOR, appunto l'associazione, diciamo l'associazione culturale, la fondazione, giusto, la fondazione di Leonardo. C'era in collegamento anche Minniti, in collegamento online, e poi c'erano tutte le varie collaborazioni e patrocini della regione, dell'Unione Camere, dell'Università degli Studi di Trieste, eccetera. Ecco, questo convegno, che parlava di questa pace giusta, appunto aveva questi, metteva come focus questa faccenda dell'ordine, del ruolo, del futuro, diciamo, dell'Europa, del ruolo dell'Europa nell'ordine internazionale, del posizionamento dell'Unione Europea tra i conflitti ai propri confini, quindi Ucraina e Medio Oriente nello specifico. E poi parlavano questi capoccioni anche delle catene del valore, le hanno chiamate loro, cioè del ruolo delle imprese, dei capitali privati, degli stati, eccetera, nelle nuove geografie del valore, cioè nella ricostruzione, no? Sappiamo che ci sono interessi mostruosi anche dietro la speculazione legata alla ricostruzione dei luoghi di guerra, e poi altre cose allucinanti. Allora, a Gorizia c'è stato l'8 di ottobre un presidio contro questa operazione di militarizzazione, appunto, della società e dell'università anche, e un'iniziativa partecipata e anche vivace. E ecco, c'è stata insomma questa cosa in continuità con questo tipo di lotta. E ci sarà il prossimo 21 ottobre un'iniziativa a Celje in Slovenia, e un'iniziativa, una mobilitazione di contestazione del primo salone internazionale della difesa, appunto il primo salone che si tiene in Slovenia. E per parlare di questa mobilitazione e anche di che cos'è questo SIDEC, primo salone internazionale della difesa in Slovenia, tra un po' ci collegheremo con una compagna slovena, appunto, che racconterà un po'. Questa compagna fa parte di un gruppo, diciamo, che si occupa dei diritti del popolo palestinese sotto vari aspetti, e hanno deciso di mobilitarsi appunto contro questo evento che appunto unisce anche qua Ministero della Difesa della Repubblica di Slovenia, l'esercito sloveno e il cluster dell'industria della difesa slovena, e che vuole essere loro, gli organizzatori dicono che insomma hanno invitato circa 150 aziende degli armamenti e vogliono un po' presentare questa mostra mercato, diciamo, degli armamenti, ma anche creare degli accordi tra i vari soggetti e anche dare una visibilità internazionale dell'industria della difesa slovena. Quindi parleremo tra un po', ci metteremo in contatto telefonico e parleremo con questa compagna. Pero lleno la rueda, no le miro el aceite, creo que mucho no frena. A ver si esto se enrolla y lo cojo de buena. Venga que ya me toca por el altavoz, ya suena. Vámonos, la número dos, puerta número dos. Lo pongo en punto muerto y piso el acelerador. La número dos, puerta número dos. Lo pongo en punto muerto y piso el acelerador. Dan un poquito pa'lante que vamos a empezar. Me cago en su puta madre, ahora el pito no va. Sabe que tiene fundido un piloto de atrás. Seguramente haya sido viniendo pa' acá. Y la población, la luz de población, también viene jodida, tiene roto un cinturón. Y la población. población, la luz de población, también viene odia y tiene roto un cinturón. Aunque ya se acerca, viene la última prueba, no para de temblar, que todo el coche se menea, no voy a correr de acá, parece que no te entera, no tenía casi nada y ustedes me lo tropean. Aunque ya se acerca, viene la última prueba, no para de temblar, que todo el coche se menea, no voy a correr de acá, parece que no te entera, no tenía casi nada y ustedes me lo tropean. Y apague el moto, apague ya el moto, viene sin pegatina, seguro que no pasó. Y apaga el moto, apague ya el moto, viene sin pegatina, seguro que no pasó. Siempre se jode el que es más pobre y no el que tiene un chofer, de que se contamine la ciudad. Siempre se jode el que es más pobre y no el que tiene un Porsche, de que se contamine la ciudad. Allora continuiamo ad ascoltare Erpizu, esponente diciamo di punta del flamencore di Cadiz, e passiamo a un altro album e ascoltiamo il suo brano Sigo mi cammino, seguo il mio cammino. Señor camino del lado malo, no del bueno. Malo gamberro con arma de rockero. De los pocos que quedan no se vende por dinero. Ya estoy inadaptado, que ya no cree en el pueblo. Sigue siendo reverde mientras que se hace más viejo. Le queda una vida dentro del infierno y se pasa los días diciendo que el puno ha muerto. Sigo por mi camino con mi amigo, bebiendo birra, tomando vino. Saco una china que hoy me la lío. Yo soy feliz con pocos lobos. Sigo por mi camino con mi amigo, bebiendo birra, tomando vino. Saco una china que hoy me la lío. Yo soy feliz con pocos lobos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. El futuro negro de cachorro sabía que no iba a llegar muy lejos. Harto ya de palos, a nadie le tiene miedo. En nunca tuvo un amo y está libre como el viento. Sigo por mi camino con mi amigo, bebiendo birra, tomando vino. Saco una china que hoy me la lío. Yo soy feliz con pocos lobos. Sigo por mi camino con mi amigo, bebiendo birra, tomando vino. Saco una china que hoy me la lío. Yo soy feliz con pocos lobos. Por mi camino con mi amigo, bebiendo birra, tomando vino. Saco una china que hoy me la lío. Yo soy feliz con poco lobo. Sigo por mi camino con mi amigo, bebiendo birra, tomando vino. Saco una china que hoy me la lío. Yo soy feliz con poco lobo. La la la la la la la la la la la la la la la la. Canto negra se agitará. Toco acordes de guerra, me llamar debe, huyendo de la fama quedársela. Prometo por mis muertos que no me venderé, me da vida mi huerto, de allí saldrán las canciones que canto y que grabo en CD. Frases que no son mías, que escuchará, son de gente que un día, que un día ayude. 3 años hace ya desde que empecé, no voy a despegar del suelo los pies, que la puerta ya para ti la cerré, y al fondo del mar la llave tiré. Y aunque me espere el dolor y la muerte, y el flamenco se vive, se siente, ritmo sureño suena diferente. Vivo sin dueño, muero por mi gente. Y aunque me espere el dolor y la muerte, y el flamenco se vive, se siente, ritmo sureño suena diferente. Vivo sin dueño, muero por mi gente. Amigo de la ira, soy un nieto del odio, mi hermana la alegría. Soy primo de la garra, novio de libertad. Mi padre es rebelión, mi madre es la solidaridad. Sobrino de la rabia, amigo de la ira. Soy un nieto del odio, mi hermana la alegría. Soy primo de la garra, novio de libertad. Mi padre es rebelión, mi madre es la solidaridad. Mi madre es la solidaridad. Y si alguna vez me quieres escuchar, ven y búscame y al centro social. Canto como vivo, rimo con motivo, mango por los campos y los a los ricos. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Allora, un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Zardins Magnetics anche da parte mia, solo per avvisarvi, mentre stiamo all'ascolto un po' di musica, che siamo in attesa di collegarci appunto con l'intervento che avevamo preannunciato sull'iniziativa, sul presidio che si svolgerà a Zelie nei prossimi giorni. Sé que no cambiaremos este jodido mundo, de sobra lo sabemos. Si es que ya por da por culo que la voz de mi garganta atraviese tu muro. ¿Qué quieres si el que canta sigue soñando con humo? Hoy va mi letra la mujer guerrera, que todos los días con rabia pelea. Al pensionista que se manifiesta, arde en la calle que prenda la mesa. Larga vida, larga vida ya. Larga vida, larga vida ya. La gente combativa. No, no vengo en son de paz. Que no, la luz se apagará. Que no, no vengo en son de paz. Que no, mi luz se apagará. Siempre activista, siempre seré. Faltan los presos, todo no está. No hables a tú, revelate. Con miedo no existe libertad. Antifascista, siempre seré. Faltan las presas, toda no está. No hables a tú, revelate. Con miedo no existe libertad. Que no, la lucha pagará. Ecco, siamo in collegamento con una compagna slovena della campagna per i diritti del popolo palestinese. Benvenuta, ci senti? Grazie. Ciao. Sì, sì. Ciao. Ciao. E appunto abbiamo un po' anticipato prima che organizzerete questa mobilitazione, diciamo, per contestare il primo salone internazionale della difesa in Slovenia a Celje. Vuoi dirci, raccontarci un po' come avete pensato a questa iniziativa e chi siete, anche di cosa? Sì, sappiamo sì. Che vi occupate di diritti del popolo palestinese, però insomma, magari se vuoi dire qualcosa in più. Sì, certo. Allora, intanto buonasera. Ciao. E poi io sono Nada Pretnar e faccio parte di Gibanese Previzio Palestinzo, che in italiano traduce in campagna per i diritti del popolo palestinese. E noi siamo un gruppo informale, non siamo un'associazione, non abbiamo uno status giuridico, che però siamo attivi a Lubiana dal 2012, per cui già da 13 anni. E siamo sia un gruppo che opera in solidarietà col popolo palestinese e oltre a questo all'interno della Slovenia, sì. Ma siamo anche membri di una rete che ha sede a Bruxelles e che si chiama ECCP, ossia European Coordination Committee for Palestine, che racchiude circa una quarantina di associazioni pro-Palestina che operano a livello dell'Unione Europea. Per cui anche questo per noi è importante, in quanto essendo un gruppo relativamente piccolo, siamo pochi, il fatto di avere un punto di riferimento, per esempio con un gruppo più grosso, ci aiuta anche nel portare avanti le campagne all'interno della Slovenia, perché ci occupiamo soprattutto di advocacy. Okay. Per cui a livello del governo sloveno, in cui spingiamo varie iniziative, l'ultima di queste è da parecchio tempo ormai, da quando c'è in corso il genocidio, che tra l'altro non è ancora finito, appunto il ricongiungimento per esempio dei familiari, cambiare la legislazione e così via. Per cui questa è la nostra attività principale. Dopodiché facciamo anche chiaramente eventi sia culturali che non. E poi adesso arriviamo alla tua domanda, sì. A questa cosa di Celje, cioè al primo salone internazionale della difesa in Slovenia, dove tra l'altro sono stati invitati, è una conferenza teoricamente, una conferenza. È articolata, però, no? Sono più giorni. Sì, esatto, in più giorni, da martedì 21 fino a venerdì 24. Il fatto è che di pari passo alla conferenza chiaramente c'è anche un'esposizione dove sono state invitate varie aziende, tra cui anche la Leonardo. E non è solo Leonardo, ma anche altre che sono complici nel genocidio di Gaza, certo. E prima in tanti altri, complici in tante altre violazioni del diritto umano, in massacri, insomma. Per cui noi chiaramente, sia come Gibanie, ma collaborazione con altre realtà che esistono in Slovenia, stiamo preparando un'azione per il giorno 20, una manifestazione per il giorno 21, martedì, sì. Che è il primo giorno. E poi proprio adesso ero in riunione, abbiamo sentito che anche il gruppo universitario di Lubiana, gli studenti hanno anche in programma di fare un'altra azione l'ultimo giorno, cioè venerdì 24. Bene. Quindi c'è una mobilitazione più allargata. È una mobilitazione più allargata, vediamo in quanti siamo, perché come ben sapete la Slovenia non è l'Italia. Stavo pensando a Udine l'altro giorno, se eravamo in 15.000. Sì. È chiaro che in Slovenia non si parla di numeri neanche alla lontana di quelli, insomma, già qualche centinaio sarebbe qualcosa. Beh certo, anche perché è infrasettimanale comunque, quindi è un momento, sì. Sì, moltissimi ci hanno detto che purtroppo non vengono chiaramente perché è un giorno infrasettimanale. Settimanale, per cui gli è difficile, ma comunque di solito anche nei momenti più di maggiore mobilitazione siamo riusciti a mobilitare al massimo 1.000-1.200 persone, non comunque, di più. Beh, che non per è... noi è molto, insomma. È bene, comunque anche le iniziative, diciamo, anche se i numeri sono ridotti, però se sono significative, sentite e vanno a toccare, diciamo, i punti critici, mm-hmm, sono comunque, sì, importanti, anzi. E poi, certo, sì, diciamo che il supporto arriva anche a distanza, no? Basta, l'importante è tenersi anche in collegamento, un po' unire le forze anche in questo senso, no? Sì, sicuramente. Comunque noi pensiamo non di fare un corteo, che non ha senso, mm-hmm, ma di bloccare le persone che, sì, entrano per registrarsi. Certo. E abbiamo lì, abbiamo creato un'azione lì in modo che, come è stato un po' fatto, stanno andando, che vedono i risultati, certo, le conseguenze di quello che stanno andando a vedere, certo, e questa è più, questa è la rappresentazione, sì, sì, un blocco, diciamo, mm-hmm, non fisico, ma saranno costretti a passare in una specie di tunnel dove non potranno non vedere le conseguenze di, ecco, quello che stanno andando a vedere. Quindi non potranno non attivare la coscienza, auspicabilmente. Esatto, auspicabilmente. Che poi, sì, leggevo che nel, così, programma di questo SIDEC, che ci sono anche, cioè, oltre a tutte le, il discorso di promuovere, diciamo, prodotti, loro li chiamano così, prodotti, soluzioni tecnologiche e servizi, sì, sempre finalizzati al militare, chiaramente alla guerra, sì, e sì, ci sono anche delle tipo delle come si dice, dimostrazioni, sì, sì, messe in scena, ecco, messe in, sì, scena, esatto. E quindi una roba allucinante. E anche, sì, allora dicono qua della terza giornata, beh, poi c'è il discorso di affrontare i temi dell'efficienza energetica, resilienza, mm-hmm, e cybersicurezza, che anche lì sono, diciamo, sì, questioni che tirano fuori continuamente. E appunto si svolgerà la manifestazione al servizio della patria, che offrirà dimostrazioni delle unità dell'esercito e presenterà oltre 60 professioni militari, dai cuochi ai piloti, dagli operatori di sistemi da combattimento agli informatici. Questo per dire che anche in Slovenia, come in Italia, mi sembra, e questa infiltrazione delle forze armate e delle, uh-huh, forze dell'ordine all'interno delle strutture, tra i giovani, diciamo, all'interno delle varie, sì, strutture scolastiche, è sempre più capillare, pericoloso, no? Sì, sì, adesso io non credo che ci sia già all'interno del discorso dell'istituzione scolastica, okay, per la Slovenia, parlo per la Repubblica, sì, Slovena. Sì, certo. Questo non ancora non c'è, ma forse vogliono spingere in questi termini, da che quello che emerge, diciamo. Sì, diciamo che quello che invece che è chiaro, ed è stato già annunciato pubblicamente, è di trasformare l'industria non bellica in industria bellica, certo, per cui non, mm-hmm, lo so, è una cosa semplice, che l'industria automobilistica sta calando, mm-hmm, ecco, di trasformarla in un'industria bellica, questo sì, senz'altro. E a questo proposito, anche se non è bellico, ma comunque c'entra Leonardo, è notizia del 13 ottobre, mm-hmm, che la Repubblica Slovena ha comprato 2 o 3 elicotteri, non per uso militare, ma comunque li ha comprati dalla Leonardo, sì, sì, sì, per uso di emergenze sanitarie, sì, ma comunque non credo che sia solamente Leonardo che produce questo tipo, esatto, di elicotteri, ma è di stato fatti, scelto Leonardo. Ma su questa cosa, tra l'altro, c'è anche, mi pare, una questione legata alla spesa, no, mostruosa, di 32 milioni di euro. Sì. E poi comunque risale a qualche anno fa, mi pare il 2023, anche la consegna, mm-hmm, da parte di Leonardo allo Stato, sì, alla Repubblica di Slovenia, di velivoli tattici, di trasporto tattico, quindi velivoli militari, che si chiamano, mm-hmm, Spartan, però, sì, anche leggevo che anche questi velivoli possono essere, loro ti dicono che possono essere utilizzati per in caso di emergenze ambientali, quindi, sì, la, sì, roba del dual use è sempre dual use, sì, sì, aleggia sempre, diciamo, e viene un po', sì, utilizzata per giustificare, sì, no? Quasi quasi, esatto, sì, come se le cose militari fossero, sì, di pubblica utilità, ecco, esatto, così, sì. Io adesso vi devo, sì, salutare, sì, perché sono in mezzo a una riunione che riguarda proprio martedì, per cui allora ricordiamo magari di nuovo l'appuntamento di martedì 21. Per chi può, io capisco che Celie non è dietro l'angolo, per cui ci vogliono, da non so se parliamo da Udine, sicuramente un paio d'ore. Sì. Comunque l'appuntamento è alle 8:30 martedì 21 davanti all'entrata principale. Comunque se andate sul sito di SIDEC troverete anche la cartina, per cui vi riuscite a orientarvi perfettamente. C'è un'unica entrata, ho chiamato questa mattina per assicurarmi e mi hanno detto che c'è un'unica entrata, quella principale. Ecco. Bene, ti ringraziamo molto di questo contributo e buona lotta. Allora. Grazie, sempre tanto. Ciao. Grazie. Ciao. Vanno da sé. Vincenzo Scarantino è un ladro di macchine, arrestato nel 1992, che dopo più di un anno di carcere a Pianosa accusa se stesso e altre sei persone dell'attentato mortale al giudice Paolo Borsellino. Nei processi che si terranno negli anni successivi, egli verrà condannato in via definitiva a 18 anni di carcere, con i benefici premiali. Mentre le sei persone da lui chiamate in correità, che sono innocenti e non hanno nulla da scambiare sul mercato della giustizia, saranno condannate all'ergastolo in ben tre gradi di giudizio e dunque definitivi andranno nel circuito di alta sicurezza a scontare la loro pena, un ergastolo ostativo, vale a dire uno di quegli ergastoli che equivale a una condanna a morte. Fino a che nel 2010 un pentito di mafia si autoaccusa a sua volta della strage, sembra stavolta fornendo dettagli più credibili del primo. I condannati sulla base delle dichiarazioni di Scarantino vengono scarcerati e vengono avviate le procedure per i dovuti risarcimenti. Il fatto che qui interessa risale a 15 anni prima. Nel 1995, infatti, Scarantino, già collaboratore e in permesso, aveva telefonato a Studio Aperto e aveva rilasciato una breve intervista sulla quale diceva di essersi inventato i dettagli sull'autobomba, di essere stato addestrato a dire quelle cose, di essere stato sottoposto a tortura nel carcere di Pianosa fra il 92 e il 94. Poche ore dopo, nella sede di palermitana di Italia 1, era arrivata la polizia che aveva sequestrato la cassetta con la registrazione delle sue dichiarazioni. La procura di Caltanissetta aveva ordinato la distruzione di tutte le copie di quell'intervista. Per i 15 anni successivi non se n'era parlato più, come se non fosse mai successo. Vincenzo Scarantino in questa telefonata aveva raccontato e ha poi ribadito in diverse sedi processuali e giornalistiche successive di cibo scarso con i vermi e di come la polizia lo avesse minacciato di iniettargli il virus dell'AIDS e di impiccarlo. In cella aveva il divieto di lavarsi e di dormire e quando riusciva a chiudere gli occhi lo svegliavano con secchi d'acqua gelida lanciati addosso. Dice, questo è un'intervista a Scarantino, i nomi mi venivano suggeriti, non è che mi li dicevano in modo esplicito, si parlava e mi dicevano ma questo c'era, ma quest'altro c'era pure, il dottor La Barbera mi faceva capire e così mi inventai la storia di una riunione, volevano trovare i colpevoli attraverso me e io gli ripetevo ma cosa vi devo dire che non saccio niente. Come da copione, alle sevizie e minacce si alternavano promesse di denaro e libertà e lui mi disse tu devi confessare, ma io gli ripetevo non so niente, lui insisteva tu devi diventare come Buscetta, importante come Buscetta, e allora poco a poco io sono entrato nel personaggio, cominciavo ad accusare tutti, avevo 27 anni, stavo male, la Barbera mi disse pure che lo Stato avrebbe acquistato alcuni magazzini, alcune case che avevo, ti diamo 200 milioni, esci dal carcere e non ci entri più. Va bene, questo qua era per come un incipit di questo primo intervento che volevamo fare in queste puntate di Zardins Magnetics sul contesto, di quel contesto in cui è venuta fuori questa DDA, o meglio questa DNAA, no? Questa Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, che si cura, per modo di dire, di tutta una serie di questioni, non sono questioni, si occupa di mandare avanti altro che insomma questioni complottiste. Qua è proprio un meccanismo degli ingranaggi che lavorano e stritolano quelle che sono da un lato le componenti marginali e comunque proletarie del meridione, delle colonie interne dello Stato italiano, che sono le isole e il Sud Italia, e dall'altro lato diciamo le componenti sovversive, per quello che insomma ne è rimasto, sempre impegnate nella lotta contro la repressione, contro lo Stato e contro la realtà, l'oppressione, contro la realtà ecocida, biocida, insomma, del capitalismo e dello Stato che lo permette. Allora, ne abbiamo parlato varie altre volte. Io prenderei spunto prima di tutto da un opuscolo che è stato fatto e che sta venendo presentato in giro anche in questi mesi, che si chiama, è a cura della cassa antirepressione La Lima di Roma, e si intitola Ruolo e strategie repressive della DNAA. È stato pubblicato nel 2024 in Val di Susa, raccoglie degli interventi fatti un anno e mezzo fa circa nella situazione di Acampada alla Sapienza, all'Università di Roma. E sì, io di questa cosa personalmente io ne ho già ero già parlato in un'altra puntata, ma ho recuperato anche un intervento che avevamo fatto, cioè da cui eravamo partiti in epoca della mobilitazione su Alfredo Cospito, quindi di oltre 2 anni fa, un intervento di un compagno da siciliano andato in onda su Onda Rossa, su Radio Onda Rossa, a proposito appunto di mafia, antimafia, di Stato. Ecco, questo qua è un po' il sommario. Adesso, se la regia è d'accordo, possiamo andare ancora un po' di musica. Cargo un cuchillo. Por Matei, segno lento, hermosamente violento. Combate que mal conspira, sabotea y se violento. Que cualquier acción violenta se justifica plenamente. Hasta que todo reviente, sé violento libremente. Los años siguen su rumbo y el olvido no descansa, volviendo la vida mansa, dejándola sin memoria, burlando su trayectoria, ya que así el poder avanza. Más nos queda la ofensiva y el incendio al que me apego, volviendo el recuerdo al fuego que como plaga se expande, porque ante todo el que mande no seré nunca borrego. Ármate, ármate, ármate y sé violento, hermosamente violento. E adesso stiamo ascoltando la Lira Libertaria de Argentina. Dopo averli ascoltati in sottofondo e dopo aver ascoltato il Sotto Pressione, scusate, il brano Sotto Pressione degli Africa Unite. Allora, per chi si è messo in ascolto da poco, questa è Zardins Magnetics di giovedì 16 ottobre 2025, oppure insomma, o chi ci sta ascoltando, ecco, da, come sempre, da Radiazione o da Radio Stacchio, che ci rimbalzano anche loro, web radio che ci rimbalzano il venerdì. Allora, noi adesso abbiamo cominciato, abbiamo cambiato argomento, siamo passati dal Leonardo invece alla guerra interna, no? Ai nemici interni dello Stato, e vi ho così un po' fatto l'anteprima di quelle cose di cui volevo parlarvi, così un sentimento, magari dico, volevo dire anch'io una parola rispetto ai momenti insomma passati martedì sera 14 ottobre qui a Udine, e un sentimento di sicuramente di solidarietà con le popolazioni meridionali, con i cosiddetti terroni, no? Molto più vicini di quanto si pensi alle nostre terre disperate qua di confine, Friuli. Abbiamo sentito prima dalla Slovenia un po' così l'esigenza di contestualizzare, di dire i numeri, le cifre sono un po' diverse, non è come l'Italia. In realtà il Friuli è un praticamente a poca popolazione in meno della Slovenia. Slovenia sono 2 milioni, il Friuli Venezia Giulia complessivamente poco più di 1 milione, quindi per chi ci ascolta da fuori faccio questo preambolo, insomma è una situazione di necessariamente quella friulana di colonia, no? Secolare, prima di uno Stato, poi di quell'altro, di quelli che ne sono susseguiti, e di fatto è un'occupazione militare proprio sfacciata, è una condizione di sudditanza psicologica nel senso comune, che non c'è modo di smuovere, di cancellare, purtroppo. E quindi sicuramente, ecco, è un sentimento che comprendiamo bene, quello che hanno vissuto i popoli del sud Italia, ecco, anche se sono contesti diversi, però sappiamo cosa vuol dire vedere calpestare insomma la propria terra da queste truppe così cammellate, e la rabbia che genera questo genere di e questo senso di dignità offesa di cui parlavamo anche altre volte, no? Questo senso di dignità offesa. che insomma che porta a ribellarsi. Quindi solidarietà sicuramente, ecco, ai quelli colpiti, alle persone colpite dalla repressione, e non si, comunque non è finita così, ecco, ci teniamo a dirlo, non è finita così, nel senso non è finita, non è chiusa la partita per sempre, ecco. Non che non si sentano così, che hanno portato a casa una vittoria, no? I simpatici, così, i simpatici, le simpatiche forze dell'ordine, forze della repressione. Questione mafia. La mafia di fatto è un concetto innominabile in Italia fino agli anni 90. Perché? Perché il partito di Stato al potere per tutto il dopoguerra in Italia, che era la Democrazia Cristiana, ha costantemente impedito di pronunciare la parola mafia in contesti pubblici. Non esisteva la mafia. E vi ricordate che avevamo citato a suo tempo la puntata di un spettacolo televisivo con Dario Fo e Franca Rame negli anni 60, in cui loro appunto in uno sketch mettevano in scena una situazione dove avvenivano degli ammazzamenti di lavoratori, e la cui responsabilità insomma era, da cui insomma il contesto era quello mafioso, e furono censurati e allontanati dalla televisione di Stato in Italia, perché era proibito e non esisteva la mafia. Tutto ad un tratto comincia a mettere, lo Stato comincia a mettere in piedi questa retorica potente e catturante, che è diventata di fatto insomma una retorica micidiale dell'antimafia. Guarda caso, i crimini di mafia sono quelli, appunto, le vittime della mafia sono 95% magistrati, il rimanente sono qualche deputato o consigliere regionale del PC, no? Stranamente sono spariti dalla faccia della terra tutti i sindacalisti, tutti i braccianti in lotta, i braccianti e i contadini siciliani, per dire, che volevano la redistribuzione delle terre prima del 45, no? Perché naturalmente la guerra in Sicilia finisce un po' prima che non nel resto d'Italia. E, ecco, allora, quindi l'operazione qual è? Quella di cancellare completamente la questione rivendicativa, le lotte fatte dai braccianti. Se vi ricordate, avevamo già parlato di questo decreto Gullo. Gullo era un ministro PC del governo Bonomi, no? Che si occupò di stendere una riforma fondiaria o agraria, diciamo meglio, per cui con la quale si superava la dimensione privatistica, no? Dei patti agrari che aveva stabilito Mussolini. Quindi praticamente Mussolini, chi lo mette al potere? Questi grandi industriali, agricoltori si chiamano, ma sono di fatto le prime forme di agroindustria italiana, no? Che vogliono annientare ogni forma di rivendicativa o di... sia sulle terre sia sul oppure anche salariale, no? Con l'utilizzo di queste bande, ecco, armate, oltre che con le forze naturalmente dello Stato, forze dell'ordine dello Stato e l'esercito, mettono in piedi anche queste milizie, no? Con le camicie nere, per annientare quelle che erano appunto le istanze alla fine della prima guerra mondiale, no? Di questi contadini che finalmente pretendevano la corretta, insomma, una vita un po' più equa, ecco, un tipo di rapporto un po' più equo con i padroni. Si parlava anche della mezzadria, no? La mezzadria prevedeva era un rapporto praticamente schiavistico, no? Col padrone, bisognava lavorare come delle bestie per avere solo un minimo di sussistenza, e con questo ministro Gullo e anche con Di Vittorio si riuscì a delineare, no, un rapporto 2/3 al conduttore, 1/3 al proprietario. Scusate, tra l'altro è quello che poi, io ricordo, così vado a braccio, però mi sembra di ricordare giusto, è quello che successe tra l'altro nello Stato jugoslavo, no? Nel socialismo jugoslavo. Poi ci furono le cooperative, l'esperienza autogestionaria, no, di Tito, ma inizialmente nelle terre qui a noi vicine fu proprio messo in opera questa cosa qua del 2/3 al conduttore, quindi 2/3 a chi coltivava del prodotto e 1/3 al proprietario. Stessa cosa, tra l'altro, apro un'altra parentesi, anche nelle lotte agrarie dei braccianti che scoppiarono anche dalle nostre parti qui in Friuli, proprio a ridosso della fine dei governi, diciamo, con partecipazione del PC, no? Quindi 47-48. Questo è un po' ecco, il contesto, no? Fino agli anni 90. Gli anni 90 sotto i riflettori, diciamo, questo discorso dell'antimafia, che cominciano queste stragi di mafia, no? Effettivamente c'è una certa attività, diciamo, militare di queste bande di salariate, tra l'altro, di picchiatori, che sono effettivamente questi delle cosche mafiose. Sì, non è che, cioè, il discorso è esiste, effettivamente esistono queste cosche mafiose, queste bande di gente prezzolata per mantenere l'ordine del capitale, ma sono parallele alla struttura dello Stato, no? Non è che sono un'entità, il male assoluto, no? Perché di fatto è questo che hanno creato i poteri dello Stato, hanno creato questa figura della mafia come una specie di demoniaca, una specie di entità demoniaca, no? Il male con la M maiuscola, il male assoluto. E sono spariti, appunto, sono gli eroi della mafia, sono diventati gli uomini dello Stato, e di fatto con la creazione della DIA da parte di Martelli e di Falcone è sparita la conflittualità militare della mafia, si è ridotta drasticamente dopo le bombe contro Falcone e Borsellino. È sparita, cioè non è che ci sono state grandi stragi dopo, no? Anzi, nessuna mi risulta, ma nonostante questo sono state mantenute tutte le strutture repressive, e nonostante questo è stata creata ulteriormente questa direzione investigativa antimafia nazionale, a livello nazionale, tutte le discussioni che c'erano a monte sulla creazione di un apparato così speciale sono state cancellate dalle stragi di Capaci e di Via D'Amelio, no? Improvvisamente nessuno ha avuto più coraggio di discutere sul fatto che queste comunque erano una forma di un po' sui generis, ecco, di un sistema un po' avulso da quelle che erano le regole costituzionali, eccetera eccetera, no? Scusate, magari per non rischiare di non perdersi, ho parlato a un certo punto, appunto, sì, giusto, mi fa un cenno che è il momento di dare una svolta musicale. Sta allora stiamo ascoltando gli Ugly Bastards con il loro album Dia Dia. Adesso andiamo a sentire il pezzo invece sempre loro, si chiama Abandonarás. Quindi siamo un po' così, adesso abbiamo parlato di tante cose e continueremo, non abbiamo detto ancora tutto, e facciamo un po' il, diciamo, arriviamo alla conclusione. Siamo partiti da Scarantino, era un esempio proprio, ed è uno, è un esempio eclatante di come funziona la macchina del collaboratore di giustizia, cioè mettere un disgraziato al tuo posto, praticamente accusarlo, perché tra l'altro le capacità di inchiesta delle forze dell'ordine sono quello che sono, ma anche sono anche non sono una priorità, evidentemente si basa la questione, cioè la questione si riduce più che si riduce a un appunto andare alla ricerca di qualcuno che canta e che accusa, che rovescia, che diffama qualcun altro, ecco, che lo infama più che diffama, lo infama qualcun altro. Questo è il meccanismo del collaboratore di giustizia, che è un esito tra l'altro ben oliato già dai tempi della lotta armata. Secondo, stessa cosa, stesso discorso anche per l'utilizzo della tortura, però questa volta, a differenza dei tempi delle Brigate Rosse, a differenza di quella volta, tranquillamente dentro le carceri, non c'è neanche bisogno di situazioni particolari, perché i tempi appunto erano diversi e le cose le facevano di nascosto, in maniera scientifica, nelle questure, no? nelle caserme della Celere. Invece ormai anni 90 si va tranquillamente in questi lager, che sono appunto le carceri, quelle per mafiosi, no? Cosiddette, quelle sezioni poi che furono messe in piedi del 41 bis, ma cose appunto che andremo a sviluppare possibilmente nelle prossime puntate. Siamo partiti da Scarantino e abbiamo visto come funziona quel meccanismo lì. Siamo passati agli anni 60, gli anni 50-60, dove non esisteva, non si poteva parlare, non esisteva la parola mafia, lo scoppio negli anni 90 del termine antimafia, della lotta contro la mafia, di questo male assoluto, mafia, camorra, eccetera, no? I pentiti come delle vedette, no? Tipo Buscetta. E cosa c'è da aggiungere per concludere e per legarsi alle altre interventi di stasera? Che naturalmente il nostro oggi 2025 è un contesto di guerra, quindi la guerra si svolge all'esterno, verso l'esterno, verso gli altri stati, ma naturalmente e contemporaneamente anche è un'esigenza dello Stato di generare consenso compatto, quindi eliminare ogni forma di dissenso, e quindi a quel costo lì si è disposti a appunto utilizzare ogni forma, possiamo dire, di contrasto, ecco, di guerra, ma in senso anche militare, meccanismi, ecco, dove andare a generare terrore, a generare paura, inerzia, indecisione, confusione concettuale, paralisi cognitiva, non capire più niente, buttarsi sulla dietrologia, buttarsi complottismo, no? Vedere complotti ovunque, vedere servizi segreti, vedere, non vedere le cose come sono, e sono come le, insomma, abbiamo cercato di delinearle noi stasera. Io con questo mi fermo e continueremo a breve, insomma, fra una settimana, e vi lascio ancora un po' di musica. Che vero solo il peggio, mangiano chiuso dentro di una gabbia come un cane, morire dentro 10 ore al giorno solo per portare a casa il pane. Solo un pezzo della normalità che ci fa mettere carbone nella macchina. Carbone nella macchina. Carbone nella macchina. Carbone nella macchina. Carbone nella macchina. È solo rabbia che rompe la gabbia. Rabbia che rompe la macchina. Rabbia che rompe la gabbia. Rabbia che rompe la macchina, rabbia che rompe la gabbia, rabbia che rompe la macchina, rabbia che rompe la gabbia, rabbia che rompe la macchina. In chiusura di Zardings di questa sera volevo solo annunciare, poi ne parleremo il prossimo giovedì, un'iniziativa che organizzeremo per sabato 25 ottobre, e cioè un presidio nella città di Pordenone, in piazza Cavour, un presidio informativo e di lotta contro gli OGM, e nello specifico i nuovi OGM, i cosiddetti TEA, e anche in generale contro l'agroindustria e appunto questo dual use che colpisce anche la produzione agricola, non solo in Italia, insomma. E, allora, facciamo a Pordenone questa cosa perché in quella città c'è una startup che si chiama Arsenale, il nome è già un programma, BioYards, che ha il delirio di onnipotenza di produrre, loro dicono di portare il laboratorio in campo e il campo in laboratorio, e quindi all'interno di un capannone di loro dicono datemi un atomo di carbonio e io ne farò quel cazzo che voglio, e cioè produrre polimeri, aromi, medicinali, eccetera, appunto attraverso la manipolazione, insomma, la manipolazione delle molecole e poi dei bioreattori, insomma, boh. E poi però, appunto, questa Arsenale BioYards condivide lo spazio con un'altra impresa con delirio di onnipotenza che si chiama Zero Farm, che appunto è specializzata nella coltivazione aeroponica indoor di piccoli frutti e ortaggi. Allora, diciamo, prendiamo queste due startup, queste due imprese come modello di un mondo distopico nel quale all'interno dei capannoni si manipolano i codici più intimi della vita, della natura, e all'esterno dei capannoni la terra viene colonizzata, viene imprigionata attraverso tecnologie come appunto l'agrovoltaico e i vari impianti per la produzione di energia, che poi vanno, guarda caso, ad alimentare proprio produzioni energivore che vanno contro il vivente. Quindi ricordo, poi appunto ne parleremo più in dettaglio, insomma è meglio di così, il prossimo giovedì, comunque sabato 25 ottobre dalle ore 15:30 in piazza Cavour a Pordenone, questo presidio contro gli OGM vecchi e nuovi e contro l'agroindustria. Allora, stiamo ascoltando i No Fly Zone di Torino dal loro album omonimo. Vuoi mettermi al muro? Testa vuota, bocca grande, ti credi qualcuno? Vattene a fanculo! Con il primo treno all'alba! Va bene, adesso cambiamo un po', ascoltiamo Nihilista Mensaje. Vamos a añadir el oscuro y nihilista mensaje a nuestros planes de la destrucción, y metódicamente montaremos el caos en el corazón de la metrópolis, montaremos el caos en el corazón. Vamos a añadir el oscuro y nihilista mensaje a nuestros planes de la destrucción, y metódicamente montaremos el caos en el corazón de la metrópolis, montaremos el caos en el corazón. Montaremos los nombres de los que murieron sobre la guerra, escrito con el humo urgente que emana de nuestra hoguera. Vamos a añadir los nombres que nos arrancaron a la fuerza, como un desgarro de nuestra piel que nos sangra tras las rejas. Somos asesinados por una rueda que aplasta y revienta, que viola, que degolla, que asfixia, que enajena, que electrifica, que apalea, que ahoga en barriles con mierda. Pero un día surge la furia cuando nadie se lo espera, y una mañana vienen los niños y queman las puertas de la iglesia. La ley huye de su violencia, imagínate la señora, los niños juegan con armas primitivas a atacar a la policía. Cuánto les odia el comercio, bien saben que nada les compraría. Nos repugna la puta policía bastarda, nos estalla la ira, el estupor y la cólera. A rodar las cabezas, bailemos sobre sus cenizas, sobre el hediondo sepulcro de los lacayos con sus crías. Hagamos trinchera tras la basura quemada, sumando mucho más odio con mucha menos esperanza. A quemar toda la miseria, nosotros solo tenemos nada distinto tanto lomo y pelaje. La realidad produce náusea. Milicemos entonces sobre este rumbo siniestro que marca el timón de la máquina civilizadora y su ejército. Seguimos fugándonos de cada uno de sus tentáculos. Seguimos cantando en todas las direcciones como el caos. Allora, mentre volevo anche dedicare questo pezzo a tutti i colpiti dalla repressione, in particolare nella manifestazione del 14 di ottobre, in solidarietà al popolo palestinese e contro l'infame partita di calcio giocata allo stadio Friuli dei Rizzi, volevo intanto anche per lo stesso motivo ricordare che ci potete scrivere alla nostra email per comunicazioni, che è liberetutti@autistiche.org, e invece per chi non avesse possibilità di accedere a un computer, come ad esempio chi è prigioniero o a chi piace la posta cartacea alla vecchia scuola, l'indirizzo è associazione senza sbarre, codice postale 129 34121 Trieste. Ricordo inoltre che potete ascoltarci sul blog, dove troverete la registrazione. Il blog è zardismagneticsradio.noblogs.org, o ricevere informazioni dal nostro canale Telegram, e in replica il venerdì sulla web radio Zardins Magnetics, e alle ore 11 su Radio Eustachio e alle ore 17 su Radiazione. Allora, anche per oggi vi salutiamo dall'Assemblea contro il carcere e la repressione di Friuli e Trieste, e vi lascio con un ultimo pezzo. Eskerrik asko ta urrengo arte, Furlanoen irratian.